seduta sul suo letto. Non sa che fare. Pensa troppo spesso e non sa reagire. Eppure il cuore batte. Batte forte. Come mai, prima di capire che quelle labbra che stava baciando e quel corpo che stava stringendo erano tali e quali i suoi. Sì, erano proprio come i suoi. Era successo da poco, doveva essere un gioco. Dentro di lei c'è un fuoco. Non è possibile, non può succedere. E ora che fare? Non riuscire a guardarla come prima. Si vergogna ma non è più una bambina. Sa bene cos'è l'amore, almeno crede. L'ha già provato altre volte, ma ora che succede? Cosa dirle, cosa pensare? Un po' confuso e non lo vuole accettare. Cercherà di mascherare ciò che sente, perché lei è come lei. Lo stomaco torna, cerca di essere normale, la guarda e il resto scompare. Sa che tornerà appena rimarrà sola, ma adesso è con lei e questo la rincuora. Non sa cosa succederà, non sa cosa si inventerà, ma ora quello che vuole, fissa i suoi occhi e il resto scompare. Adesso sono una cosa sola, si tale e quali ma l'unica persona. C'è qualcosa di cui dicono che si dovrà vergognare, poi cercheranno di rovinare tutto quanto tra di loro. Si sentono il mondo contro, gente stupida tutto intorno. Come possono insultare chi vuole soltanto amare? Non smetteranno di guardare, non smetteranno di indicare. Mano nella mano, il peccato è il proibito. E adesso provateci voi a vivere come avete sempre voluto. Ora che voglio solo te, in questa notte fredda, tienimi stretta ancora, ancora. Ora che voglio solo te, in questa notte.